Dall'accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg, capitolo 32esimo. Il militarismo come campo di accumulazione del capitale. Il moderno sistema degli alti dazi protettivi, ossia il sistema protezionista, che corrisponde alla espansione coloniale e agli acuiti contrasti all'interno dell'ambiente capitalistico, è stato inaugurato anche come base essenziale dell'enorme sviluppo degli armamenti. In Germania come in Francia, in Italia come in Russia, il ritorno al protezionismo si compie parallelamente al potenziamento dell'esercito e nel suo interesse, come base del sistema adesso contemporaneo della corsa al riarmo europeo, prima per terra, poi per mare. Il libero scambio, ossia il liberismo europeo, al quale è corrisposto il sistema militare continentale con centro di gravità nell'esercito territoriale, ha spianato la via al protezionismo come base e completamento del sistema militare imperialistico, in cui il centro di gravità si sposta sempre più verso la flotta. L'accumulazione capitalistica presa nel suo insieme, come concreto processo storico, ha dunque due lati diversi. Il primo si compie nei luoghi di produzione del plusvalore, la fabbrica, la miniera, l'azienda agricola e sul mercato. Sotto questo aspetto, l'accumulazione è un processo puramente economico, la cui fase più importante si svolge fra capitalista e salariato, ma che in entrambe le fasi, la fabbrica e il mercato, si muove entro i limiti dello scambio di merci, dello scambio di equivalenti. Pace, proprietà e uguaglianza regnano qui come forma, e occorreva la tagliente dialettica di un'analisi scientifica per svelare come nell'accumulazione il diritto di proprietà si converta in appropriazione della proprietà altrui, lo scambio delle merci in spoliazione, l'uguaglianza in supremazia di classe. L'altro aspetto dell'accumulazione del capitale ha per arena la scena mondiale, per protagonisti il capitale e le forme di produzione non capitalistiche. Dominano qui, come metodi, la politica coloniale, il sistema dei prestiti internazionali, la politica delle sfere di interesse, le guerre. Appaiono qui apertamente, senza veli, la violenza, la frode, l'oppressione, la rapina, la guerra. E costa fatica identificare sotto questo groviglio di atti politici, di forze e di violenza esplicita le leggi ferree del processo economico. La teoria liberale borghese vede solo una delle due facce: il dominio della concorrenza pacifica, dei miracoli tecnici, del puro scambio delle merci, e separa nettamente dal dominio economico del capitale il campo dei chiassosi gesti di forza del capitale come più o meno accidentali manifestazioni della politica estera. In realtà, la violenza politica non è qui se non il veicolo del processo economico. Le due facce dell'accumulazione del capitale sono legate organicamente l'una all'altra dalle condizioni della riproduzione, e solo in questo loro stretto rapporto il ciclo storico del capitale si compie. Il capitale non soltanto nasce sudando da tutti i pori sangue e fango, ma si impone gradatamente come tale in tutto il mondo e così prepara, fra convulsioni sempre più violente, il proprio sfacelo. Nella storia del capitale, il militarismo esercita una funzione ben definita, accompagnando il processo dell'accumulazione in tutte le sue fasi storiche. Nel periodo della cosiddetta accumulazione primitiva, cioè agli albori del capitalismo europeo, il militarismo ha una parte di primo piano nella conquista del Nuovo Mondo e dell'India prima, nella conquista delle colonie, nella distruzione delle comunità sociali delle formazioni primitive e nell'appropriazione dei loro mezzi di produzione. Nell'introduzione del commercio in paesi la cui struttura sociale ostacolava l'economia mercantile, nella proletarizzazione forzata degli indigeni e nell'applicazione del lavoro salariato nelle colonie, nella costituzione e nell'ampliamento delle sfere di interesse del capitale europeo in territori extraeuropei, nell'accaparramento di concessioni ferroviarie in paesi arretrati e nella tutela dei diritti acquisiti dal capitale europeo mediante i prestiti internazionali. E infine, come arma della lotta di concorrenza fra stati capitalistici per il controllo di regioni a civiltà non capitalistica. Quanto più energicamente il capitale si serve del militarismo per assimilarsi i mezzi produttivi e le forze lavoro di paesi e società non capitalistici attraverso la politica coloniale mondiale, tanto più energicamente il militarismo lavora, nel cuore degli stessi paesi capitalistici, per sottrarre agli strati non capitalistici della sua terra di origine, ai rappresentanti della produzione mercantile semplice, così come alla classe operaia e contadina, una percentuale sempre maggiore di potere d'acquisto, priva sempre più i primi delle loro forze produttive e comprime sempre più il livello di vita dei secondi, per dare poderoso impulso, a spese di entrambi, all'accumulazione del capitale. Ma da entrambi i lati le condizioni dell'accumulazione del capitale si tramutano ad un certo livello nelle condizioni del suo stesso tramonto. Con quanta maggior potenza il capitale, grazie al militarismo, fa piazza pulita in patria e all'estero degli strati non capitalistici e deprime il livello di vita di tutti i ceti che lavorano, tanto più la storia quotidiana dell'accumulazione del capitale sulla scena del mondo si tramuta in una catena continua di catastrofi e convulsioni politiche e sociali, che insieme con le periodiche catastrofi economiche rappresentate dalle crisi rendono impossibile la continuazione dell'accumulazione e necessaria la rivolta della classe lavoratrice internazionale al dominio del capitale, prima ancora che sul terreno economico esso sia andato a urtare contro le barriere naturali elevate dal suo stesso sviluppo. Il capitalismo è la prima forma economica dotata di una forza di propagazione, una forma che reca in sé la tendenza immanente ad espandersi in tutto il mondo e ad espellere tutte le altre forme economiche. Una forma che non ne tollera altre accanto a sé, ma è nello stesso tempo la prima che non può esistere da sola, senza altre forme economiche come suo ambiente e terreno di sviluppo. Che perciò, mentre tende a divenire forma economica mondiale, si infrange contro l'incapacità intrinseca ad essere una forma mondiale di produzione. È una vivente contraddizione storica. Il suo moto di accumulazione è insieme l'espressione, la soluzione continua e il potenziamento di un'antitesi interna. A un determinato grado del suo sviluppo, questa contraddizione non può essere risolta altrimenti che dal socialismo, cioè da quella forma economica che è insieme forma mondiale per essenza e sistema in sé armonico, in quanto rivolto non all'accumulazione, ma al soddisfacimento dei bisogni di vita dell'umanità che lavora, mediante lo spiegamento di tutte le forze produttive della terra.